Vai, Italia, vai, che libera tu sei. Vai, Italia, vai, sorridi che siamo noi a prenderci i nostri sogni, ad andare lontano, a superare scogli. Mano nella mano, la pioggia degli afflitti ha superato tutti i limiti, la loro ingordigia affoga in una pozzanghera annega. Il giorno della riscossa è alle porte del nostro cielo. Preparati a venire, che il loro bianco e nero, nei teatri dell'indecenza, ci impiccheremo ogni violenza. Nei sobborghi dell'ingiustizia, ci pianteremo innocenza. Nei parchi dell'arroganza, ne faremo fuoco della loro assenza. Del loro volere tutto, ne faremo strade senza indecenza. Che l'alba sta arrivando, seguita a ruota da un nuovo giorno, e con lui una nuova strada da percorrere sino al tramonto. Chi ha seminato vendetta raccoglierà erbaccia, chi tanto ha saputo aspettare troverà infine la pace del cuore. Non lasciare neanche una goccia attraversare il tuo viso, che il tempo del pianto crolla con la venuta del tuo sorriso. Non lasciare prenderti dall'ira, tu che tanto hai saputo dare al mondo intero tutto, tutto il tuo amore. Vai, Italia, vai, che libera tu sei. Vai, Italia, vai, sorridi che siamo noi a prenderci i nostri sogni, ad andare lontano, a superare scogli. Mano nella mano, il tempo dell'attesa, dei soprusi è finito. Non abbiamo più posto dentro per chi brucia il nostro fiato. Avrà le sue piaghe ferite da scorticare nel suo viso. Il suo inferno è cominciato lo stesso giorno in cui è nato. Sei stata troppo paziente con gli sciacalli e gli avvoltoi, ma adesso è giunto il tempo di liberarti dei falsi eroi che hanno abusato, ti hanno ridotto in questo stato, violato la tua purezza, stuprato ogni tuo invito. Che l'alba sta arrivando, seguita a ruota da un nuovo giorno, e con lui una nuova strada da percorrere sino al tramonto. Chi ha seminato vendetta raccoglierà erbaccia, chi tanto ha saputo aspettare troverà infine la pace del cuore. Non lasciare neanche una goccia attraversare il tuo viso, che il tempo del pianto crolla con la venuta del tuo sorriso. Non lasciare prenderti dall'ira, tu che tanto hai saputo dare al mondo intero tutto, tutto il tuo amore. Vai, Italia, vai, che libera tu sei. Vai, Italia, vai, sorridi che siamo noi a prenderci i nostri sogni, ad andare lontano, a superare scogli. Mano nella mano.